che con Pippo non c'è assolutamente problema. C'è stato uno scambio di un minuto neanche di opinioni. Tutti noi vogliamo il bene del Milan, ci mancherebbe che fosse successa una cosa simile. Riusciamo a vincere un trofeo che ci mancava da tanto tempo. Secondo me la nostra società meritava un riconoscimento. Adesso è il momento di anche di metterci la faccia e di rimanere uniti in quello su cui stiamo lavorando. Non dobbiamo mollare un centimetro. Tutti convocati di Carlo Genta. Noi non ci nascondiamo mai, noi cerchiamo sempre di vincere, ma vedendo Lazio di primo tempo non merita neanche questa classifica. Secondo tempo abbiamo migliorato tutto quanto e abbiamo dimostrato che c'è tanta margine di miglioramento. Guardate, qui si parla anti-Juve da sempre, poi si diceva della Lazio, Petkovic è stato bravo a dire che noi, lui è pro Lazio e noi siamo pro Napoli, non si pensa ad altro, si cerca di vincere più partite possibile. Da qui alla fine, poi si tireranno come giusto che sia le somme all'ultima giornata del campionato. Noi non preoccupiamo nessuno, anzi ci preoccupiamo noi. Noi dobbiamo preoccuparci di noi stessi, non dobbiamo preoccupare gli altri. E poi non penso che la Juve sia preoccupata solamente della Lazio. Noi siamo in una competizione sana e ce la giochiamo, partita per partita però, senza fare proclami e senza dover mettere così il vessillo su un traguardo che è ancora molto lontano, può capitare di tutto. Follow me. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Lo Tito non firma per il secondo posto, De Laurentiis ci crede. Io no, ho detto ieri che la Juventus mi sembra Miguelone Indurain quando vinceva i Giri d'Italia. Tra l'altro Marotta indirettamente ci ha risposto, poi lo sentiamo anche lui. A proposito di ciclismo, c'è chi scrive: ufficiali 7 Tour de France tolti ad Armstrong sono stati reclamati dall'Inter. Ovviamente una battuta via SMS. Siete convocati tutti 800240024. Dall'America arrivano indiscrezioni di questa intervista realizzata da Oprah Winfrey, che andrà in onda alle 3 di notte italiane del 18, in cui già registrata però. Le indiscrezioni dicono che Lance Armstrong avrebbe confessato tutto, l'uso di doping per truccare quei Tour de France. Avremo modo di parlarne. Intanto torniamo a quelli che ci credono alla Lazio e al Napoli come anti-Juventus. Qualche numero: ultime 10 partite, Lazio 23 punti, Napoli avrebbe gli stessi, ma 2 sono stati tolti dalla giustizia sportiva, vedremo se verranno riassegnati. Milan e Juventus 17, Udinese 16, il Napoli è a più 13 rispetto all'anno scorso, più 5 rispetto all'anno in cui andò in Champions, la Lazio più 6 rispetto all'anno scorso, stesso passo della squadra di Eriksson. Ne scrive oggi, aggiungendo altri numeri, sul Corriere della Sera, Alessandro Pasini, che saluto. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Ma tu ci credi? Beh, noi dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. Dobbiamo, in quanto giornalisti, intendo in quanto interpreti della realtà, vediamo i numeri, vediamo questa leggera flessione della Juve e dobbiamo crederci. Poi i tifosi naturalmente ci crederanno ancora di più. Sì. Sai, quando arrivi secondo me alla fine, anzi all'inizio del girone di ritorno, e i punti sono questi, io credo sia obbligatorio crederci per chi insegue. Poi sono piuttosto d'accordo con te che la Juve possiede un passo superiore, eccetera eccetera, però insomma un po' questi dati, un po' il momento, un po' il fatto che arriverà la Champions a breve e che questo periodo molti avevano diciamo immaginato come il momento dell'allungo definitivo, no, della Juve per poter arrivare alla Champions con un margine ancora più ampio di quei, cos'erano, 7 punti mi sembra che erano riusciti ad avere. Non dimentichiamo però che anche Lazio e Napoli avranno l'Europa League. Certo, però insomma questo colpevolmente noi italiani, no, l'Europa League la consideriamo un po' come una coppetta di seconda scelta e quindi io credo che di fronte a una chance scudetto, però questo non lo possiamo dire. Ad ogni modo Ecco, considerando tutti questi fattori, insomma, bisogna crederci. Poi, ripeto, la Juve resta più forte e, come si è scritto in tanti, la vera anti-Juve, adesso per dire una banalità, ma insomma ci intendiamo, era la Juve, no? Insomma, certo. Sono quei campionati che puoi solo perdere, come accadeva nel ciclo precedente dell'Inter, insomma come è accaduto tante volte nella storia del calcio italiano. Però Lazio e Napoli stanno facendo bene e io credo che, insomma, ripeto, facciano bene a crederci, perché hanno qualità e soprattutto che abbiano la testa. Te? Si somigliano Lazio e Napoli, ma senti, alcuni punti in comune secondo me li hanno, poi certamente hanno delle differenze nelle modalità di gioco eccetera, però insomma intanto i loro cammini sono li hai citati tu prima, insomma cammini quasi storici, no, per in confronto al loro passato. E questo è già qualcosa, cioè due stagioni straordinarie. Attaccano bene, sono molto forti in casa, hanno diciamo un modulo base da cui insomma derogano piuttosto raramente, adesso poi Petkovic l'ha fatto domenica, no? Passando a tre, ma insomma sono molto strutturate, sono molto esperte perché sono fra le due squadre più vecchie del campionato e insomma mi sembrano costruite per fare risultato, poi dopo certo. Che il risultato sia vincere lo scudetto o no, questo è un altro discorso, poi forse il Napoli gioca più verticale di ripartenza, la Lazio magari più di possesso, anche se poi possesso è tutto sommato simile, però insomma sì, io le vedo abbastanza simili anche nella guida, anche se i due allenatori hanno caratteri, no, diversi, anche il modo di porsi, però il loro approccio al calcio mi sembra molto solido e molto razionale, certo, ecco, questo non c'è dubbio, ecco. C'è l'incognita giustizia sportiva, perché a Napoli sono stati levati questi due punti e vediamo se verranno restituiti come pretende De Laurentiis. Sulla Lazio c'è l'incubo deferimento di Mauri, più tardi in primavera a marzo potrebbe arrivare la sentenza, potrebbero essere addirittura 5 punti di penalizzazione, ma qui stiamo ipotizzando, però l'incognita esiste. Certo, no, noi dobbiamo ragionare insomma senza questi dati, è chiaro che poi purtroppo, no, tutti i ragionamenti, adesso tu prima parlavi del ciclismo, insomma, e anche nel calcio ormai bisogna dare i giudizi con una certa, no, cioè ci vuole una certa sospensione del giudizio, perché non si sa mai che cosa farà la giustizia sportiva, come purtroppo molto peggio, no, nel ciclismo tante volte si è. Quindi bisogna aspettare naturalmente, però ecco, dal punto di vista puramente così tecnico di quel che stiamo vedendo, per rispondere alla tua domanda, insomma ci devono credere, poi è chiaro che se la Lazio incorrerà in penalizzazioni, se al Napoli non verranno restituiti i punti, è chiaro che la situazione insomma si complica sempre, certo, di più, certo, questo è certo, questo certo. È certo. Grazie Alessandro, buon lavoro. Grazie a te, grazie e saluti a tutti. Ciao, grazie, ciao. Alessandro Pasini del Corriere della Sera, 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire, siete tutti convocati oggi pomeriggio e tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 3 su ogni argomento sportivo, magari anche sul, poi parliamo anche di questo, sul disastro del primo turno degli italiani all'Australian Open, fuori tutti o quasi, passano solo Seppi e Vinci e Roberta Vinci, tutti gli altri già a casa. Traffico. Grande pesce per la zuppa, grandissimo, fa una bella zuppetta con la scorpione. Il problema è che devi trovare il pescivendolo che lo sa pulire bene, se no c'è qualche spina che ti fa gonfiare le mani. Tutti convocati. Ecco che torniamo, avete sentito una ricetta di Rino Gattuso, ma non parla Gattuso solo di pesce in questa intervista, dice anche altre cose come questa. Perché all'inizio stagione avevo paura da tifoso, vedere come era partita in Milan, dentro di me dicevo, e alle persone che mi stanno vicino, anche ad Andrea, speriamo che si arriva ai 40 punti il primo possibile, perché non la vedo bene quest'anno. E invece dopo, sentendo anche i miei compagni, qualche suoi discorsi, il suo modo di fare, la squadra come si è ripresa, il gioco che a tratti prima di Roma ha fatto vedere in campo, ha fatto cambiare idea, anche il modo di come si è posto con la televisione, con le televisioni, con la stampa, con i suoi giocatori, ed è per questo ho detto questo. Dopo il fatto fra me e lui, tu lo sai, io non ho mai litigato con lui, certo. Per me c'è stato, lui vedeva a me come una roba, gli potevo dare una mano come dirigente, come uomo spogliatoio, come uomo della società, ma io avevo ancora voglia di giocare e ho preso la mia scelta, però fra me e lui non c'è stato nessun problema. Questo Gattuso, poi sentiremo altre dichiarazioni, dice che da grande vuole tornare, dice che dava sberloni a Del Sharrawy perché aveva capito che era forte, quindi voleva tenerlo sulla corda. Intanto ascoltatori, 800 24 00 24 numero verde. Mario Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io l'ho sentita, era per una telefonata che ha fatto ieri, che è stata fatta ieri, e lei, sì, parlava della Juventus come della squadra più forte del campionato, giustamente. Sì. Però lei, io non so se queste ultime tre partite, perché lei a un certo punto ha detto, vabbè, ha perso con la Sampdoria, ci sta. Ci sta neanche Parma, tanto. Ci sta col Parma, il pareggio, però col Milan la Coppa Italia, ha raggiunto la Coppa Italia. Ma lei l'ha vista la partita col Milan? Sì. Il secondo tempo cosa mi dice? Ma le dico che non è la migliore Juventus, certamente non è la migliore Juventus. Io sono convinto che in questo periodo abbia caricato sulla preparazione in vista di marzo, quindi questo le dico. Sì, no, volevo solo sapere da lei questa roba perché mi sembrava decisamente sottotono. È sottotono, ma è certamente sottotono la Juventus, però io giocando con un Milan in quel stato lì che faceva paura, sembrava il secondo tempo l'hanno veramente dominato. Sì, sì, ma questo conferma la mia sensazione che la Juventus sia in un periodo di abbia passato un periodo di massimo carico ed è tutt'altro che brillante. Poi sappiamo come la Juventus viva molto sull'intensità fisica, sulla furia agonistica, su tutte queste cose che abbiamo nominato mille volte. L'impressione è che stia controllando da lontano la concorrenza come faceva Miguelone Indurain ai tempi in cui vinceva i Giri d'Italia. A proposito, Marotta ieri si vede che ci ascolta, ha detto proprio questo. Sentiamo. Il campionato di calcio è paragonabile al Giro d'Italia, non alla Milano-Sanremo, quindi è una corsa a tappe. E non sempre tutte le tappe si possono vincere, ma bisogna vedere il traguardo finale quando sarà. Chiederemo copyright alla Juventus, eh? Cosa dite? Francesco Avellino. Salve, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Prendo lo spunto dal ciclismo per catapultarmi nel ciclismo. Sì. Allora volevo dire che nel giorno delle ammissioni di Armstrong io volevo ricordare una grande leggenda che è Marco Pantani, la persona punita, pensate un po', per un valore un po' più alto del normale, l'ematocrito, non si parlava di sangue, modificazioni, trasfusioni. Poi è finita, lo sappiamo tutti. Sì. La persona che ha rischiato di far saltare il tour e Armstrong allo stesso tempo, col sangue pulito, non col sangue di Armstrong. E mi sembrava doveroso, mi dispiace che oggi lui non sia qui. Beh, dispiace, parecchie persone. Dispiace a tutti noi, ma quelli erano gli anni del doping selvaggio e insomma Pantani era stato fermato per ematocrito alto a Madonna di Campiglio. Io resto convinto che gli venne tirata un'imboscata, però insomma questa è dietrologia. Io ho l'impressione che in quegli anni di pulito non ci fosse veramente nessuno, quindi inutile stare a fare le verginelle. Saluto e ringrazio invece da Napoli Gianluca Monti, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Gianluca. Buongiorno a voi. Reduce dalla conferenza stampa di presentazione dei nuovi arrivati Armero e Calaiò, che hanno detto? Sì, oltre alle consuete frasi di Rito. di queste circostanze, devo dire che per Emanuele Calaiò, essendo un ritorno, si vedeva come il ragazzo fosse decisamente più a suo agio rispetto a Pablo Almero, un Calaiò che ha ammesso la verità, ha detto di non essere logicamente un top player, ma visto che in Italia in questo momento non ci sono e non ne stanno arrivando, lui ritiene di poter dare una grossa mano all'attacco del Napoli ed in effetti, considerate le caratteristiche dello stesso, si può dire tranquillamente che Calaiò ha la possibilità di giocare in coppia con tutti gli attaccanti attualmente in rosa. Viene qui per il ruolo di vice Cavani, non si sente tale perché la speranza è quella di maturare più presenze e più minuti possibili al fianco magari dello stesso uruguaiano. Ma è vero che Bigone ha detto che hanno sondato Balotelli? Non esattamente, ha raccontato ancora una volta questo incontro di 2 anni fa a Sorrento, al quale ha presenziato anche lui, dicendo secondo me una cosa interessante, che oggi è più difficile rispetto a 2 stagioni fa prendere Balotelli, ma nel momento in cui il Napoli dovesse trovare una squadra che paga l'intera clausola rescissoria per Cavani, allora dal punto di vista economico paradossalmente questa operazione è invece più facile rispetto ad un paio di stagioni fa, perché su Balotelli potrebbe essere reinvestito parte del, del malloppo che arriverebbe dall'eventuale cessione di Cavani. Certo, ma io penso che potrebbe essere uno scenario plausibile, non soltanto un brano di fantascienza calcistica o di mercato. Tu oggi sulla Gazzetta scrivi: da un anno nessuno come gli azzurri, in effetti il Napoli è quello che ha più punti, è la squadra che ha più punti rispetto all'anno scorso, è un più 11 che si legge più 13 o più 13 che si legge più 11. Sì, assolutamente così. Tra l'altro Mazzarri lo scorso anno ribadiva sempre che il Napoli in Champions avrebbe lasciato addirittura 10 punti in campionato. In effetti non era una squadra attrezzata per il triplice impegno, perché poi il Napoli è arrivato anche a vincere la Coppa Italia. Quest'anno probabilmente l'eliminazione in Coppa Italia potrebbe addirittura rivelarsi invece un vantaggio, ed essendoci l'Europa League, la turnazione soprattutto nelle prime gare della competizione internazionale ha dato modo al Napoli di risparmiare energie che poi ha riversato appunto sul campionato. Secondo me il raffronto va fatto soprattutto con 2 anni fa, il Napoli ha 3 o 5 punti a seconda se consideriamo o meno la penalizzazione rispetto al campionato di 2 stagioni fa quando era impegnato in Europa League. La crescita secondo me è evidenziata soprattutto da questo, considerato anche il fatto che il Napoli ha perso 2 elementi importanti come la crescita di Organo. Verissimo, verissimo. Senti, quanto ci credono lì a Napoli nella possibilità di restituzione di quei punti da parte del secondo grado di giustizia sportiva? De Laurentiis molto, realisticamente? Secondo me almeno quanto credono tutti nello scudetto senza dirlo, quindi ci credono non tanto. Ci credono davvero tanto, perché ritengono il ruolo di Gianello così marginale da riuscire in qualche modo a cavarsela, perché giustamente il Napoli si sente dal suo punto di vista parte lesa, il che non vuol dire che dal punto di vista giuridico la sentenza sia attaccabile, però è logico che nel momento in cui si tratta di una partita che il Napoli ha perso, nella quale comunque la squadra azzurra non ha visto impegnato il portiere, che è stato come vuol dire il fulcro di questa combine, ci si sente moralmente privati di un qualcosa di cui si ritiene di avere diritto. Secondo me soprattutto De Laurentiis si sente in qualche modo penalizzato dal fatto che questi 2 punti sono arrivati a campionato in corso, li avrebbe tra virgolette digeriti meglio ad inizio stagione o sul prossimo campionato. Sì, su questo non ha tutti i torti. Quindi mi dicevi, ci credono molto nello scudetto? Sì, assolutamente, credo che pian piano stanno cominciando anche a venire fuori frasi del genere. È logico che la parola si fatica a pronunciarla, però De Laurentiis che ieri dice che il Napoli non firma per arrivare secondo, Mazzarri parla sempre di partita per partita, ma ammette che appunto non c'è un obiettivo, perché non si accontenterebbe di arrivare dietro la Juve. Lo stesso Calaiò che oggi sottolineava come spera che il Napoli si riveli sempre più antipatico alla formazione bianconera rispetto a quello che ha detto Marchisio, mi sembrano chiari segnali che lo spogliatoio, nel quale da sempre si crede nello scudetto, fa fatica adesso a non esprimere anche al di fuori delle mura appunto dello spogliatoio. Dicono, già che ci siamo, corriamo, se la Juventus lo butta dalla finestra dobbiamo essere lì a prenderlo. Quindi esattamente questo credo il concetto, il senso sia questo. Sì, dal quale muove le sue grandi motivazioni Walter Mazzarri, quelle che poi trasferisce. Se butta il bambino dalla finestra siamo sotto a salvarlo. Facciamo questo. Grazie Gianluca, buon lavoro. Grazie a voi, altrettanto. Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Davide da Torino invece è convocato, 800240024. Ciao Davide. Sì, pronto, ciao, buongiorno a tutti. Io sono un tifoso della Juve. Io volevo far notare un po' una cosa che comunque sembra che passa sempre in secondo piano. Quest'anno la Juve, l'anno scorso la Juve giocava molto meglio a calcio. Conte l'anno scorso è passato da un 4-4-2, 4-2-4, poi faceva un 4-3-3, mi ricordo con Pepe, poi cambiava, andava sul 3-5. Quest'anno mi vedo proprio piazzato su questo 3-5-2, che a mio modo di vedere non è che dà questi grandi frutti di gioco, anche perché Pepe è abbastanza sottovalutata la sua mancanza, perché Pepe sì. Con Lichtsteiner sulla fascia, io noto sempre che Lichtsteiner arriva a fine primo tempo che... No, poi tra l'altro l'anno scorso Pepe, soprattutto nel girone d'andata, fece un bel po' di gol, fu molto importante, lei si ricorderà. Pepe e Marchisio nel girone d'andata fecero un sacco di gol con i loro inserimenti. È chiaro che è una Juve differente, ma è altrettanto evidente che è una Juve che ha anche pensieri europei. Ci fermiamo per la borsa? Dobbiamo fermarci per la borsa, benissimo. Convocati subito dopo, 800240024. Questo al forno, a cartoccio, mezz'ora a 180 gradi, non sbagli, gli fai i tagli lateralmente, okay. Butti 3-4 gamberi Sicilia dentro la pancia, con una cipolla dentro la pancia, prende un bel sapore. Tutti convocati. Anche su Twitter, tra coloro che ci seguono, sono pullulano i permalosi come Aldo, suonate come una trasmissione gobba, intesa come juventina, per l'SMS letto prima su Twitter all'Inter, era chiaramente una battuta, no Aldo? Se non si capisce questo, vabbè, vogliamo riderci sopra, vogliamo anche fare di queste, anzi vi permetto di fare di queste battute, mi sono limitato a leggerla. Il problema, sapete qual è? Che prima un ascoltatore ci chiedeva di far sentire la smentita di Berlusconi sulla mela marcia, Balotelli eccetera eccetera, non possiamo perché siamo in regime di par condicio e io so già che dal 20 in poi non potrò più farlo sentire e mi manca già da morire Lotito. Questa è una famosa frase, fu detta il dado è tratto, cioè questa è una posizione che viene assunta normalmente quando uno deve assumere una decisione importante e come dire, anche assumendo una decisione non solo importante ma anche di un grande forte senso di responsabilità di per eventuali ricadute. Il dato è tratto significa appunto che ormai abbiamo iniziato il percorso e ci siamo previsti, quindi il dato e tratto significa significa la decisione è presa. Potrebbe questo tipo di considerazione far presupporre che è una decisione sofferta, cioè nel senso che avrebbe potuto avere altre sfaccettature, ma che poi alla fine ormai è presa la decisione e quindi dobbiamo proseguire nel percorso che abbiamo preso. Mi manca già, tra l'altro sapete che notizia dei giorni scorsi, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo liceo sportivo all'interno del liceo scientifico, con due materie specifiche di indirizzo sportivo che andranno a sostituire storia dell'arte e latino. Chissà come la pensa Lotito su questa riforma. Dovesse essere eletto quel liceo sportivo, lo vedo traballante. Dario Bari, buongiorno, tutti convocati, buongiorno. 800240024, dica. Allora, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono un tifoso del Bari, ma soprattutto un appassionato di calcio e volevo parlare un attimino di calcio scommesse, insomma questa piaga a cui abbiamo assistito tutti molto impotentemente, anche alla luce del programma di domenica sera sulle tre presa dirette, che ha dato uno spaccato molto, sì, molto angosciante, insomma, di quello che è il calcio scommesse. Io volevo proporre, non penso una provocazione, sicuramente non è la soluzione, però diciamo è qualcosa che forse può servire. E chi mi dice che è una cosa impossibile, posso già dire che è una cosa che succede nel campionato argentino, cioè far sì che ogni squadra sia obbligata a fare punti in tutte le giornate, in tutte le partite. Perché? Perché negli anni successivi si retrocede non per i punti di quella stagione, ma per la media punti dei campionati successivi. Quindi una squadra che le ultime 5 giornate è già salvo, è già retrocessa, piuttosto che tirare in barca e fare degli spettacoli squaliti in cui abbiamo visto che i giocatori si vendevano le partite, è obbligata sempre a fare punti, perché quei punti possono tornare utili nelle stagioni successive. Sì, accade essere... già nel campionato argentino. Cosa ne pensate? Beh, può essere un'idea dando per scontato che sono tutti dei ladri e dei truffatori, no? Quindi bisogna trovare, se la pensiamo così, ladri e truffatori ce ne sono tanti e l'abbiamo scoperto, per fortuna lo stiamo scoprendo. Le ultime giornate di campionato spesso e soprattutto in Italia, perché in Inghilterra ad esempio non accade, sono qualcosa di squallido, di viscido e di sospetto, e quindi può essere presa per buona qualunque idea, appunto partendo dal triste presupposto che sono loro signori tutti degli squallidi ladri e truffatori. Io invece voglio celebrare, perché mi sembra il caso, un'impresa sportiva vera. Un'impresa sportiva vera, che è questa realizzata ieri sera da Sassari. Finisce qui la partita 96-66, Riccardo, un risultato che poteva starci in termini assoluti ma non in termini di punteggio. Dunque 96-66 nel basket, Sassari batte la Montepaschi Siena dal 2001, Siena piglia tutto, non beccava un trentello, gara 3 dei quarti di finale con la Fortitudo. Cosa posso fare se non i complimenti di nuovo a Meo Sacchetti? Ma i complimenti li devi fare ai miei giocatori e poi io me ne prendo una parte, però hanno fatto veramente qualcosa di importante contro una grande squadra, perché noi avevamo già fatto delle belle prestazioni in casa, proprio delle partite anche spettacolari, però averla fatta contro Siena dà più valore a questo. È vero che ieri sera in certi momenti ti sei seduto a goderti lo spettacolo dei tuoi? No, ero in piedi, però onestamente nel secondo tempo ci sono stati 5 minuti che onestamente me la sono goduta, di come stavano in campo con l'intensità, con le facce giuste. Questo per un allenatore, vedere i suoi giocatori giocare con la bella faccia, con la presenza, con l'intensità e tutto, è sicuramente un piacere. Sì, Varese sorpresa di questa prima metà di campionato, voi una conferma? Bah, sicuramente avevamo già fatto bene il girone di ritorno l'anno scorso, poi avevamo passato il primo turno dei playoff e quest'anno ci tenevamo un po' a confermare quello che era. Abbiamo ottenuto insieme una parte della squadra, di cui i due diner sono una parte fondamentale. Abbiamo cambiato qualcosa cercando di migliorare, cercando di prendere dei ragazzi più che dei giocatori che tessero bene insieme. Questo è un po' il nostro valore aggiunto, che ci aiuta penso anche nei momenti difficili, che poi in una stagione ci sono sempre. Meo, vai, ti senti di andare a Milano a giocare le Final Eight da favorito? Guarda, io te lo dico, me lo continuano a dire, io non ci sto ancora pensando alle Final Eight da favorito, perché io sto già pensando a Biella, sì, ci gioco domenica. E abbiamo sempre fatto così e non vogliamo andare più avanti. Quando arriveranno le finali penseremo alle finali. Non siamo una squadra che ha la capacità o la mentalità per andare a pensare tra un mese. Noi abbiamo bisogno di stare sempre molto svegli e pronti mentalmente, perché se ci manca questa carica agonistica noi diventiamo una squadra mediocre. Perciò questa è un po' la nostra forza e la nostra debolezza, che come scendiamo un po' di intensità diventiamo bruttini. Siete un po' come la Juventus, insomma, dovete giocare sempre col sangue agli occhi. Ma dobbiamo giocare sempre col sangue agli occhi, abbiamo dei giocatori di talento, di cui Travis Diner e Drake Diner sono due giocatori che mettono sicuramente a proprio agio anche i propri compagni, perché voglio dire, ieri Travis ha fatto 5 5 tiri ma 12 assist, hai capito? Perciò voglio dire, è un giocatore che quando c'è bisogno di far canestro, fa canestro, ma non è uno che vive per il canestro, hai capito? L'esempio è stato ieri, in una partita da quasi 100 punti, lui, voglio dire, ha fatto 5 tiri. Certo, certo, certo, certo. Questa è un po' la sua forza. Signor playmaker, grazie Meo. Figurati, tante grazie, cose. Grazie e di nuovo complimenti per questa impresa. Ricordo, più 30 contro Siena, non accadeva dal 2001 in questo posticipo del basket di ieri sera. 800-24-0024, come vedete il panorama è molto ampio, poi parleremo anche di tennis, però io vorrei sentire un altro, prima di Samuele da Firenze, altro ascoltatore convocatissimo, un'altra dichiarazione di Gattuso? Dai, proviamo. Milan è casa mia e Milan mi manca, sarei ipocrita a dire che Milan non mi manca, e Milan per 13 anni ho fatto un altro sport, perché andare a Milanello e avere tutto quello che ho avuto e che c'è tuttora, anche se c'è stato un piccolo ridimensionamento, però in Milan non si dimentica, ed è normale che l'obiettivo è quello di un giorno di tornare da grande e da fare da qualcosa da grande. Poi vi faccio sentire anche quella degli sberloni al Sharawi, però prima 800-24-0024 per voi ascoltatori convocati ogni giorno. Samuele, Firenze, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Premetto di essere un super tifoso della Fiorentina, quindi sì, magari posso sembrare anche faccioso in certe parole, ma vorrei, visto che voi invece dimostrate sempre tantissimo equilibrio nelle parole e nei toni, chiedervi una spiegazione. Vorrei capire come fa una terna, anzi un sestetto arbitrale da qualche tempo, a non vedere certi errori gravissimi, certi falli o non falli come sono successi a Udine e anche a Roma, Lazio-Atalanta. Vorrei sapere cosa deve pensare un tifoso, uno sportivo, un appassionato. E soprattutto deve pensare che sono, Samuele, deve pensare che sono degli errori, deve pensare che in questo momento la Fiorentina è sfigata da questo punto di vista, nello stesso modo in cui la Lazio ha fortuna. Non si può pensarla in altro modo, a meno di non voler tirare fuori la dietrologia e quindi fare del complottismo. L'unica cosa che si può pensare è che in questo momento il vento tira contro la Fiorentina, che però deve ritrovare i gol di Jovetic, deve ritrovare il vero Jovetic. Il punto mi sembra questo. Poi verranno anche i tempi in cui alla Fiorentina arriverà una mano, perché come sappiamo, quando guardate la Lazio, quando c'è il vento favorevole succedono anche di queste cose. Alberto, Torino, il calcio è un gioco strano, più di tutti gli altri. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto grazie per la compagnia di tutti i giorni e per la competenza. Grazie a lei. Senta, io volevo sottoporle un quesito. Così. Io sono tifoso della Juventus, però non è che la società della Juventus in sé come proprietari eccetera eccetera mi sia mai garbata un granché. La questione Agnelli Del Piero, cioè in questo momento la Juventus sta cercando disperatamente, prima è andata a cercare Bentner, poi adesso sta cercando Lisandro Lopez, Immobile, Gabbiadini, chiunque, ma non era forse meglio tenersi buono Del Piero, che poteva entrare gli ultimi 20-25 minuti come ha fatto l'anno scorso e dare il suo apporto più che notevole, mi sembra, ma anche da un punto di vista, dico io, della riconoscenza, insomma, per tutto quello che ha fatto. Ma sa, Alberto, si è deciso che la storia lunghissima e meravigliosa Del Piero alla Juventus fosse finita. Io credo che ogni storia debba finire, ma è finita un po' in malo modo, però è giusto voltare pagina. Cioè, io penso che, insomma, Del Piero su quella panchina a riscaldarsi e entrare gli ultimi 5 minuti, insomma, ha vissuto un'ultima stagione piuttosto triste, Alessandro Del Piero alla Juventus. Io sono dell'idea che sia giusto così, quindi che abbiamo fatto bene a voltare pagina. Poi sulle modalità discutiamone, anzi l'abbiamo già fatto ampiamente. Tutti convocati. Allora monta l'attesa, non solo in America, è montata ad arte l'attesa per questa intervista a Lance Armstrong, che ieri Oprah Winfrey ha registrato ad Austin, a casa di Armstrong. Ebbene, ha parlato la stessa regina del talk show, dicendo che Armstrong ha ammesso, ma non al punto che mi sarei aspettata. Quindi ha ammesso, ma lascio ad altri giudicare se era pentito, ma era serio e per lui l'intera intervista è stata difficile. Questo ha detto Oprah Winfrey. Non resta che attendere e sentire questa intervista e poi decideremo se siamo soddisfatti, cara Oprah. Luca da Ragusa. Buonasera, sono Luca da Ragusa. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Io volevo parlare della Juve. Sì. E del mercato della Juve. So che la Juve sta puntando a un giovane italiano che è Immobile. Sì. Volevo sapere un parere tecnico: che tipo di peso può avere l'attacco della Juve con Immobile? Giocatore lo sta trattando, è vero, sarebbe un ritorno, giocatore di... Potrebbe aggiungere fantasia, certamente la Juventus ha bisogno di qualcuno che finalizzi. La Juventus, non dimentichiamo che è stata usando con il contagocce l'attaccante più forte e fantasioso e creativo che ha, che è Mirko Vucinic, che ha problemi al tendine. Secondo me Immobile può dare una mano, ma non risolvere i problemi. A proposito di attaccanti, sapete com'è cresciuto El Shaarawy? Sapete perché è diventato così forte? Ve lo spiega Gattuso. Allora, prima parlo di El Shaarawy. Secondo te perché rompevo le scatole di El Shaarawy? Perché se era una capra non ci perdevo tempo. Invece qualche schiaffone, qualche consiglio glielo davo perché vedevo che poteva fare un qualcosa, perché c'era la qualità, la stoffa era quella. Capito? Capito come è cresciuto El Shaarawy? Mentre possiamo anche, per chiudere su Gattuso, sentire cosa da dire su Balotelli. Stato molto bravo il suo procuratore Balotelli a non rispondere a quella provocazione. Sono stati bravissimi, l'ho trovata molto, una mossa molto furba, perché se il Milan lo può prendere Balotelli, il Milan ci prova. Sì. Perché sanno che Balotelli è un grande giocatore e dopo se combina qualche sciocchezza fuori da campo chi se ne frega. In questo momento a Milan servono giocatori e dopo secondo me può solo che migliorare a Milanello. Sono d'accordo con Gattuso, naturalmente. C'è un altro spinoso argomento da evadere, che è quello dell'Australia tristissima per il tennis italiano, Vincenzo Martucci, Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi. Tutti a casa. Seppi e Vinci restano quasi lì. Quasi tutti. Gli altri prenotano il primo volo di ritorno. Sì, tieni presente che c'è ancora il doppio, che per le italiane è stato una grande fonte anche di, oltre che di soddisfazioni, di guadagni, però sicuramente molto molto deludenti i primi due giorni dell'Open d'Australia e soprattutto hanno riportato un po' alla luce quelli che sono i limiti di certi giocatori come la Errani, che obiettivamente l'anno scorso ha fatto veramente dei miracoli. Quando lo diceva lei molti non la credevano, in realtà una ragazza così piccolina che ottiene, arriva addirittura a chiudere l'anno al numero 6 del mondo, sì, obiettivamente colpisce. In più ha giocato contro un'avversaria che è una di quelle mine vaganti, l'ultima delle non test di serie, una giocatrice che è 33 del mondo ma in realtà molto molto più brava, solo che non è continua, una giocatrice che conosciamo per avere qualità, per aver battuto già la Pennetta, quindi insomma è stata anche che poi la conosceva molto bene, si allenano spesso insieme, quindi è stata anche un po' sfortunata nell'accoppiamento. A prescindere da questo ci fa capire come l'anno scorso è stato straordinario per lei, è una giocatrice che è stata per 3-4 anni intorno ai 40 del mondo, all'improvviso esplode, ma obiettivamente fa più di quanto si potesse pensare, come la finale del Roland Garros. Ecco. A questo punto ci aggrappiamo alla racchetta di Roberta Vinci, oltre che al doppio. Ma sai, io alla Vinci credo un pochino meno sotto un certo aspetto, quello per esempio della continuità. La Vinci è piccolina come la Errani, e ha un gioco molto difficile perché non avendo potenza deve sempre trovare delle soluzioni, deve stare concentratissima, cioè la forza della Schiavone e la forza dell'RN è stata molto fisica, no, nei loro risultati. La Vinci deve fare veramente i salti mortali per fare un punto, anche se ha un bellissimo servizio volé, obiettivamente non è facile per lei. No, io dico che dobbiamo puntare su Seppi, questo già dall'inizio, perché noi abbiamo soprannominato sulla Gazzetta Mister Solidità, in realtà è veramente il giocatore italiano più solido che abbiamo da anni, certo. È un esempio per tante cose, è un giocatore che può darci delle soddisfazioni, non è appariscente come Bonelli e come Fognini, non è esplosivo come la Schiavone, non è uno che vai a vedere e ti spelli le mani dagli applausi, ma è un giocatore classico di questo tennis, tanto è vero che è stato fatto da comunque anche da Riccardo Piatti, che è l'allenatore più classico di questo momento, cioè grandi attenzioni particolari, schemi semplici, saper fare tutto, ecco, e quindi io dall'inizio pensavo che è Seppi vero potesse che le delusioni fare strada. Sono state grosse le delusioni di Fognini, soprattutto perché non può regalare due set, la delusione delle due ragazze, Knapp e Giorgi, che peraltro sono le due più giovani e le migliori giovani che abbiamo, sono state molto deludenti. Seppi può andare avanti, può incontrare Cirici, può più avanti, può fare delle cose, ecco. Come vedi nel complesso i due tabelloni all'alba di questo torneo? Ma purtroppo, dico purtroppo, ma stiamo parlando di eccellenza, alla fine arrivano sempre più forti. L'ho visto anche in questi risultati, diciamo, l'unico risultato veramente eclatante è stata proprio la sconfitta della Errani, perché gli altri risultati in realtà non ci sono. E fra gli uomini c'è un grandissimo equilibrio, ma solo da un certo livello in poi, perché poi i primi, Del Potro, Djokovic, Federer, sono veramente troppo più Murray, sono veramente troppo più forti di quelli che incontrano nei primi due o tre turni. Certo, poi dopo devi vedere quello che succede, ma obiettivamente lo schema è sempre quello. Ho visto giocare molto molto bene Del Potro, ma anche lì dipende dalle condizioni climatiche, perché sai, ti puoi trovare dall'orario il caldo, il freddo, il tetto chiuso, veramente l'open australiano è molto legato, sono molte incognite legate ai fattori esterni, e quindi obiettivamente se dovessi dirti oggi secondo te chi vince, io vedo Serena Williams nettamente favorita, ma per esempio oggi in una partita facilissima che ha vinto 6-0-6-0 si è storta una caviglia, tutti terrorizzati perché l'anno scorso si storse una caviglia e poi non riuscì a vincere, anzi perse una delle sole quattro sconfitte dell'anno. Tabellone dall'altra parte tutti dicono Djokovic, io invece penso che Djokovic non ce la farà alla fine, non so, c'ho questa idea che qualcosa gli succederà, guardando il tabellone, Berdych, chissà, Berdych in giornata potrebbe fargli anche uno scherzetto prima ancora di arrivare nei quartieri alti. Mi piacerebbe vedere Federer, che lo vedo molto molto rilassato, anche troppo, con le bambine a bordo campo, però certo, sai, per un appassionato di tennis, per uno che ne vede tanto di tennis, c'è talmente tanta differenza quando gioca lui e quando giocano gli altri che uno spera sempre che rimanga dentro. Ah certo, grazie Vincenzo. Buon lavoro, grazie. Ciao, Vincenzo Martucci, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Faccio in tempo a salutare Luigi da Varese. Luigi, buongiorno. Buongiorno a voi, ci possiamo per la vostra trasmissione. Grazie, dica. Ci possiamo sentire domani? Perché, come no, certo. Perché è scaduto il tempo, guardi, se vuole domani verrà chiamato all'inizio del programma. Appena apriamo le danze. La ringrazio e la saluto, non la disturbo. No, ma non mi disturba affatto, ci mancherebbe, mi disturbano loro che invece mi impongono di chiudere e andare a casa. La capisco benissimo, la ringrazio e buon lavoro. Grazie, a domani con tutti i convocati, Franco Piantani, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Ciao a tutti. I sogni Secondo Cenerentola, i sogni sono desideri.